Buonasera, possiamo iniziare questa conferenza. Vi ringrazio di essere venuti così numerosi e con oggi chiudiamo la nostra parte legata al Festival delle Resistenze con una figura particolare. Il tema direi che è nuovo, insomma non l'abbiamo mai affrontato qui sul territorio e devo ringraziare veramente il dottor Adel Jabbar perché alcuni mesi fa era venuto in biblioteca e così parlando di quelle che potevano essere alcune iniziative, alcuni temi nuovi da sottoporre al nostro pubblico per poi invogliarlo a leggere sempre delle cose nuove ma con un legame al nostro territorio. Adel Jabbar mi ha suggerito questo personaggio, questo Giorgio Malincola, che appunto nel titolo avete trovato sulla cartolina, un partigiano nero nel Lager di Bolzano. Questa sera è qui con noi anche Mara Daroit, una voce famosa qui che torna anche in biblioteca provinciale e leggerà alcuni passi e allenterà la nostra conferenza con la sua voce professionale. Abbiamo preparato una piccola vetrina con alcuni titoli che potete prendere in prestito legati sempre a questo tema. C'è anche un romanzo intitolato Ti mira dai, composto da questo gruppo, questo collettivo della narrativa Booming, e dove si parla della vita della sorella di Malincola e dove appunto viene affrontata per parte anche la storia di Giorgio. Grazie Adel, grazie a Mara, vi auguro una buona serata e vi invito anche a tornare con le nuove iniziative, con le cartoline che avete sulle sedie. Grazie. Grazie, grazie. Grazie all'editrice Valeria Trevisan che quando sono passata qua per un saluto, poi abbiamo parlato del più e del meno, mi ha detto che stava preparando qualcosa per il Festival della Resistenza. Allora a me mi è venuto subito in mente questo personaggio che per la verità sono venuto a conoscenza della sua esistenza non da molto tempo. Da alcuni anni, però non sono tanti, nel senso che sono stato in un convegno a Bologna e, però adesso volevo ringraziare subito Valeria, però vorrei certamente innanzitutto salutarvi, augurarvi buon incontro, buonasera e grazie per essere presenti. E ringrazio in anticipo per l'ascolto e l'attenzione e faccio subito una premessa che metodologica. Io non sono storico, non sono studioso della resistenza, anche se io sono nato in un paese dove vigeva un regime dittatoriale, quindi anche la mia scelta di andare in esilio è stata una scelta di resistenza, nel senso che la resistenza l'ho vissuta di persona, nel senso che sono un attore, ho quindi in qualche modo una sensibilità, un'esperienza appartiene alla mia traiettoria, al mio itinerario di vita, per cui quando sono venuto a conoscenza dell'esistenza di questo personaggio, come diceva prima, a Bologna in un convegno partecipavo in un convegno sui temi della cittadinanza, immigrazione, perché io sono sociologo e mi occupo di questa cosa qui, e quindi un collega, quando ha saputo che io abitavo a Trento, vivevo a Trento, mi ha indicato una signora che stava al fondo della sala dove si svolgeva il convegno e fa: quella signora lì ha avuto, una signora su una sedia a rotella scura, ha avuto un fratello che è morto della vostra parte in Trentino. Allora io sinceramente che mi consideravo una persona abbastanza curiosa, abbastanza anche per motivi anche professionali, e allora mi sono trovato un po' spiazzato da questa, non sapevo nulla, e a me sembrava una cosa assolutamente importante, solo che quando poi sono tornato a Trento ho cominciato a informarmi della gente che conosco, che conoscevo, spesso poi gente abbastanza informata di queste vicende, però nessuno ha saputo dirmi molto su questa figura qua. Passato un po' di tempo mi è arrivato una mail da un ente con cui collaboro di Modena, che mi invitava a partecipare alla presentazione di un libro su Marincola, di questo titolo, Razza Partigiana. E allora poi io insomma mi sono informato, ho cominciato a guardarmi intorno, ho guardato come succede negli ultimi anni, subito si va ad utilizzare la macchina magica, no? Internet, e quindi ho cominciato a recuperare un po' di notizia. E poi sono andato alle Biblioteche del Mondo di Bolzano e ho chiesto loro di eventualmente di recuperare i libri che sono usciti sulla figura di Giorgio Marincola. Quindi, però, dicevo, io non sono storico, non sono studioso della Resistenza, sono un sociologo, perché vi chiedete come mai una persona di origine straniera si occupa delle nostre vicende. In parte ve l'ho detto perché io sono un prodotto della cultura della Resistenza, io personalmente, però dall'altra parte per motivi professionali, nel senso che sempre ho visto che la storia, sia nel paese d'origine che qui, che in giro per il mondo, viene insegnata in un modo molto recintato, no? Come ci fosse un luogo ben preciso, ben codificato, e dentro il quale si muovono certi fatti, certi episodi, certi avvenimenti, no? Trascurando tutti i contatti, connessioni con quello che avviene fuori da quel contesto lì. Questa è più o meno la storia che leggiamo sui libri, la storia ufficiale, le storie meno ufficiali, no? Allora io invece penso che la storia, siccome fatta dalle persone, donne e uomini, e le persone sono idea, e l'idea cammina insieme alle persone, attraversano qualsiasi confine, qualsiasi trincea, qualsiasi recinto, qualsiasi steccato, e vanno al di là di luoghi abituali. E per cui la storia è fatta di idea, e come diceva, e l'idea si spostano, e si spostano come lo spostarsi delle persone. Allora la storia di Giorgio Marincola, da questo punto di vista, assolutamente paradigmatica per quanto riguarda quello che ho cercato di esporre, è la storia del camminare. Allora, chi è Marincola? Marincola sta dentro una pelle scura, però sta dentro un sistema ideale che le rendeva di quell'epoca giovane italiano. Sistema di idee di un giovane italiano che ha abbracciato certi valori. La sua pelle invece le faceva ricordare la sua altra appartenenza, l'essere figlio di una somala. E quindi Giorgio Marincola cercava di mettere insieme queste, la sua pelle e le sue idee insieme, e collocarle dentro la storia italiana, che lui ha vissuto una storia sicuramente intensa, che voi conoscete molto meglio di me, momenti di regime, di repressione, di persecuzione, poi di guerra, di resistenza. E quindi Giorgio Marincola ha la pelle che gli fa ricordare la sua appartenenza somala e la sua idea che gli fa appartenere alla gioventù italiana che ha abbracciato un certo sistema di valori. Quindi in qualche modo un figlio dell'impero, quindi metà suddito, e però anche figlio dell'Italia, quindi metà cittadino. Quindi questo rende poi la sua ricerca molto più complessa, ma anche più interessante, più curiosa, e che mi ha portato ad interessarmi di questa figura qua. Allora, Giorgio Marincola, intanto è Giorgio, perché adesso vediamo la sua foto. Questa è una targa di una strada in una frazione del comune di Biella, la Chiavazza, dove hanno dedicato una strada in ricordo di Giorgio. Giorgio, in effetti, anche nei libri che sono ricordati in questo bellissimo, una bellissima ricerca fatta di due giovani, Carlo Costa e Lorenzo Chiodonio, sono due giovani che si interessano di temi della resistenza a Roma, uno collabora con l'Istituto Storico di Roma, e vengono anche loro a conoscenza, poi vi dico come, di questo personaggio. Quindi un libro assolutamente, che ho visto che è anche presente nella biblioteca, è importante da consultare. Giorgio, perché questo libro qua poi di fatto utilizza diverse fonti e diverse documentazioni, fra cui alcuni libri che sono molti di voi conoscono, un libro di Pantozzi, sono degli anni 70, prego? Minotauro. Il libro del papà, credo, di una persona presente qua, Piero Marangoni, Ariele Marangoni, su bande, giorno e notte, la lotta alla resistenza, insomma, in questa area. E quindi questi libri, però, questa figura rimane, nel senso che in alcuni libri viene chiamato il medico sudafricano, in altri viene chiamato, in una didascalia di una foto di una foto all'interno di uno di questi libri, dove veniva definito un negro americano che ha combattuto insieme i fratelli bianchi, in altri a Biella con alcune formazioni di partigiani veniva chiamato il mulato, in altri il moro, e poi quando è finito nel lager di Bolzano è stato registrato con il nome di Renato Marino. E poi in un certo periodo, nel suo periodo di resistenza, Biella veniva chiamata il tenente Mercurio. E quindi sono tutte denominazioni e aggettivi e descrizioni, alla fine sono nomi di battaglia di Giorgio Marino, di Mercurio, di questo Mercurio. Il nome di battaglia è stato quello di il tenente Mercurio a Biella, nella formazione, nella operazione Boma, devo guardare i miei appunti, l'operazione Bamon, che è stata sponsorizzata degli inglesi. Ma comunque, prima di arrivare a questi dettagli, io vorrei tornare a fare un passo indietro, perché sono partito dal suo ritratto per spiegare, insomma, per descrivere questa identità tra pelle e idea, tra sistemi valoriali e appartenenza ad un certo origine, e l'essere metà suddito e metà cittadino, che incidono molto sulla sua scelta, e sulla sua scelta soprattutto di quella di voler continuare, no, la resistenza nei confronti del nazifascismo. E quindi faccio un passo indietro, ringraziando Mara, che ultimamente mi sta facendo compagnia in termini molto professionali, mi sta accanto, soprattutto per gli aspetti insomma, di lettura artistica. Per cui, dopo il ritratto, andiamo a vedere questo personaggio, dove è nato. Prego, Mara. Passi il microfono. Abbiamo solo il microfono? Sì, sì, ce lo facciamo passare. Prego, ma. Giorgio Marincola, nato in Somalia nel 1923 da un sottufficiale dell'esercito originario di Pixo Calabro e da una donna somala, Ashiro Hassan, la cui sola annotazione agli atti è la provenienza clanica, viene riconosciuto e registrato dal padre Giuseppe poco dopo la nascita a Mogadiscio. Due anni dopo, dalla stessa donna nasce Isabella, anche lei subito riconosciuta dal padre. Fatto non consueto nell'Italia coloniale del tempo, quando molti residenti sul posto, per lo più militari, si accasavano con donne indigene, chiamate Madame, da cui avevano figli spesso non riconosciuti e abbandonati insieme alle loro madri alla partenza per altra destinazione o al rientro in patria. Nell'Italia liberale e nei primi anni del fascismo, il governo non interverrà sulla piaga del madamato e sui suoi lasciti, i figli meticci, che acquisivano, una volta riconosciuti, la cittadinanza del padre. Solo più tardi le leggi razziali del fascismo sconvolgeranno la prassi delle convivenze con donne indigene, proibendo ogni legame con i nativi e negando il riconoscimento della prole, col risultato che da allora i figli proibiti e abbandonati per legge degli italiani in colonia verranno affidati a istituti missionari, da cui i meticci prenderanno in Somalia il nome collettivo e lo stigma sociale di figli della missione. Non sarà questo il destino di Giorgio e Isabella, ma i due bambini, Isabella ancora in fasce, vengono presto sottratti alla madre somala per essere allevati dalla moglie italiana del padre, Elvira Floris, sorella di un commilitone sardo che Giuseppe sposa poco dopo il suo rientro in Italia. Grazie. Rientra quindi Marincola, che nasce in Somalia, rientra insieme al papà, che lascia la moglie, che non era certamente un contratto matrimoniale, ma era una convivenza e quindi insomma un matrimonio di fatto, e da questo matrimonio nascono Giorgio, che è il più grande, poi dopo due anni nasce la sorella di Giorgio, Isabella. Il papà, quando rientra in Italia, porta insieme suo figlio Giorgio, e che poi lo affida allo zio Carmelo, che stava a Pizzo Calabro. Se qualcuno è stato mai a Pizzo Calabro? Sì? Fanno delle nocciolate assolutamente eccezionali. Pubblicità progresso, no? Perché vi vedo che particolarmente seri. Allora, la nocciolata di Pizzo Calabro, assolutamente eccezionali. È chiaro? Sì, anche la zona del Bergamotto. La zona del Bergamotto, che fanno dei biscotti molto buoni, e poi la cipolla di Tropea, anche da quella parte. Bene. Classico. Bene. E allora, dicevo, viene allevato il figlio, cresciuto fino all'età di 10 anni, della famiglia del zio. E quindi Giorgio, poi vediamo, a differenza della sua sorella, ha vissuto un'infanzia particolarmente felice, coccolato, anche se vogliamo lontano dalla capitale Roma. Allora stiamo parlando, ormai siamo in pieno regime, quindi dalla propaganda razzista da un certo punto di vista, anzi senza punto di vista, perché poi questo incide molto sulla sensibilità di Giorgio. E quindi Giorgio vive, cioè cresce fino all'età di 10 anni, viene trasferito a Roma, quindi viene a abitare inizialmente in una zona centrale, via di Portoghesi, e poi trasferiscono in un secondo momento a Casa Albertone. Il quartiere Casa Albertone è un quartiere intorno alla stazione Tiburtina, l'ho conosciuta perché quando andavo a Roma tempo fa venivo ospitato da un amico abruzzese e lì c'è una grande concentrazione di persone dell'Abruzzo, perché poi Roma c'ha i quartieri in base al tipo della migrazione, quindi siciliani, calabresi, e questa Casal Bertone è una zona abitata da una percentuale significativa di persone di origine abruzzese. Quindi trovano una casa in quel quartiere lì, e Giorgio inizia a frequentare il ginnasio Umberto I nella zona vicino a Santa Maria Maggiore, vicino alla stazione Termini, e poi un ginnasio, quindi una scuola media allora e una scuola superiore, e viene ad avere in pratica all'interno del suo percorso scolastico ha avuto un professore di storia e filosofia di nome Pilo Albertelli. Pilo Albertelli è stato un militante antifascista di origine parmigiana, parmense, fugge da Roma, è stato arrestato allora anche nel 28, finisce a Roma, quindi viene a insegnare in questa scuola qui, e Pilo Albertelli poi successivamente è stata una delle vittime delle fosse ardiatina, quindi stiamo parlando marzo del 44, è stato un professore dove ha esercitato forte influenza a diversi compagni di Giorgio. Quindi Giorgio, insieme, adesso mi ricordo alcuni compagni che sono citati nel libro, in questa ricerca, Corrado, Giove, Cefaro, che hanno insomma militato insieme nel partito di Azione, fondamentalmente, perché il professore era appartenente o comunque un simpatizzante del pensiero libersocialista di Gubbetti, di Capitini, quindi in effetti poi vediamo queste influenze, le vediamo negli appunti che sono trovati nella casa, insomma, di Giorgio Marincola, che commentava soprattutto il pensiero di Benedetto Croce sul tema della libertà e dell'uguaglianza, poi vediamo insieme Mara. Comunque questo pensiero, anzi vediamo subito, che dici Mara? Sto parlando di questa cosa qua. Vediamo quindi questa influenza di questa figura, di questo professore, come ha inciso, come Giorgio Marincola cercava anche di elaborare questo pensiero, e le vediamo tramite gli appunti che i ricercatori hanno trovato in alcuni quadri di Giorgio Marincola. Parli di Benedetto Croce? Sì. Sì, anticipiamo. Sì. Mi dai il microfono? Mi passi il microfono? Adesso. Ah no, scusa. No, scusa, stiamo facendo. Allora. Abbiamo invertito. No, scusate. Allora, dicevo, ho invertito io. Allora, state registrando tutto? Quindi anche questi momenti. Bene. Allora, dicevo, quindi Giorgio Marincola cresce in un clima politico che è all'interno di una propaganda fortemente razzista. E dall'altra parte una propaganda razzista, e la sua scelta ideale, la figura del professore Pilo Albertelli, il suo colore della pelle, la sua appartenenza, perché poi Giorgio in secondo momento sceglie di studiare medicina e voleva specializzarsi in malattia tropicale per tornare in Somalia, quindi questo suo desiderio poi non è stato realizzato, ma comunque aveva questo obiettivo, e quindi era, anche se da piccolo è stata portata in Italia, anche se ha scelto di vivere in Italia perché è un italiano per cittadinanza, per formazione, per pensiero, ma anche in qualche modo appartiene ad una madre che è rimasta in Somalia. Però apro questa parentesi, una cosa curiosa, perché loro si interrogavano, questi figli, soprattutto la sorella, quando chiedevano, perché quando si sono la sorella di Giorgio, quando è arrivata tramite le suore perché il papà ha incaricato le suore cattoliche in Somalia di portare questa figlia. Quando è arrivata la figlia, ha vissuto direttamente con la Elvira, la moglie, Elvira Flores, la moglie sarda, con la quale certamente non ha avuto un rapporto assolutamente facile. Nella testimonianza, che leggerà il libro, vedrà che comunque quando questa ragazza Isabella chiedeva: ma qual è la nostra mamma? Allora dicevano: questa qua è la mamma, Elvira Flores. E li fa: però sui documenti risulta che siamo nati da Ashiro Hassan. Quindi non è... Allora il papà rispondeva: sì, ma questo si chiamava così perché era in Somalia, quindi il nome era una traduzione del Vira Flores in somalo. E diceva: ma allora perché siamo neri? Dice: ah, ma lì c'era tanto sole, quindi chi ne c'era lì? Quindi, e poi di fatto scopre tramite l'altra sorella, che è nata dell'altra Rita, dell'altro matrimonio, che il papà ha fatto altri due figli, un maschio e una femmina, Ivan e Rita, dell'altra moglie. E quindi questa Rita gli dice: no, guarda, vostra mamma è somala. Quindi lei da grande scopre questo fatto qua, su cui aveva certamente dei dubbi, però la risposta era assolutamente elaborata in un modo quasi convincente, però non del tutto. Allora, vivendo in un clima dove, come si dice, gli slogan erano scritti anche sulla scuola: muschetto e libro, libro muschetto, fascista perfetto. E quindi venivano insegnati nei libri cosa sapete della razza, cos'è la razza, e la denigrazione, la svalorizzazione della figura del meticciato. E quindi Giorgia Marincola vive in un contesto tra la pelle, tra il desiderio di tornare in Somalia, tra la militanza e tra la figura di questo professore Pilo Albertelli, e quindi la sua lettura anche di Benedetto Croce, no? E quindi vediamo qual è il clima politico e la propaganda di allora, e cosa dicevano, a Giorgio, cioè, no? Che lui poi di fatto era il bersaglio di questa propaganda. Eccoci. È nostra salda opinione che l'incrocio con gli africani sia un attentato contro la civiltà europea, perché la espone a decadenza, dato che essa è un prodotto possibile solo nell'ambito delle razze europee. Con la situazione antropologica determinatasi lentamente in Africa, non stupirà se il miscuglio vi fu sempre deleterio, come evidentemente lo è per i popoli civili che assorbono sangue africano. A ben motivo dunque la decisione del Gran Consiglio fascista per l'inasprimento delle misure contro il meticciato, grave piaga i cui effetti si proiettano ingigantendo nel tempo e della quale i responsabili mai saranno puniti abbastanza. Il problema del meticciato è contemporaneo e corrispondente alla colonizzazione, specialmente alla colonizzazione di popolamento, e nessuna nazione coloniale lo ha potuto risolvere. Il meticcio è un essere disambientato fra i bianchi come fra gli indigeni. È un soggetto incapace delle forme di diritto perfezionato, come è incapace nelle altre forme di diritto indigeno dal quale è uscito. È un ibrido, è un pericolo. Pienamente giustificata appare quindi la politica del regime. Andiamo avanti con la scuola? Sì. Ecco, qui torniamo alla vita specifica di Giorgio. Nella casa di Pizzo Calabro il piccolo Giorgio viveva come un principino. Gli zii lo amavano moltissimo e lo coccolavano come un figlio. Grazie a loro imparò a suonare il pianoforte, a nuotare in mare aperto, a non sentirsi a disagio in mezzo agli altri bambini. A scuola invece gli insegnavano a marciare in fila ternaria, nella formazione che fu gloria delle legioni romane. Imparava a risolvere problemi di matematica, dove quattro comunisti, perché hanno poca voglia di lavorare, guadagnano al giorno 8 lire, e 4 fascisti, 15 lire al giorno. Chi guadagna di più? Libro e moschetto, fascista perfetto. Bene, bene. Oggi interroghiamo sul libro del fascista, il paragrafo che avete studiato. Cosa devo sapere sulla razza? Allora, Bregonzi, che cosa si intende per razza? La razza è una massa di uomini simili per caratteri fisici e psichici, che furono ereditati e continueranno a ereditarsi. Molto bene. Le razze sono tutte uguali? Vi sono fra le razze differenze fisiche e spirituali. A quale razza appartieni? Appartengo alla razza ariana. Perché dici di appartenere alla razza ariana? Perché la razza italiana è ariana. Come si chiama l'individuo nato da genitori di razza diversa? L'individuo nato da genitori di razza diversa, dei quali uno di colore, si chiama meticcio. Quali sono i caratteri del meticcio? Il meticcio è un individuo fisicamente e moralmente inferiore. Ogni individuo che procrea un meticcio offende la dignità della razza e condanna il proprio figlio a uno stato di inferiorità fisiologica, morale e sociale. Qual è il primo dovere dell'italiano che vive nei territori dell'impero? È quello di mantenere il prestigio della razza. Esiste dunque un vero e proprio delitto contro il prestigio della razza? Sì, tutte le volte che il puro sangue della nostra razza è mischiato, inquinato, contaminato. E tutte le volte che il prestigio di questa razza superiore e dominatrice è avvilito per mancanza di quella dignità e di quella fierezza di cui ogni italiano deve saper dare esempio, in modo speciale tra gente di diverso sangue e di inferiore civiltà. Ecco, queste sono alcune delle testimonianze, ma anche rispetto ai libri di testo, la modalità educativa, i temi di questo tipo qua venivano anche inserite nei lettoriali, no? I bandi per partecipare ai lettoriali, queste gare sportive, culturali o altro, e una volta il stesso Giorgio Maricola ha partecipato e ha dovuto studiare, no? Il temi di questo tipo qua proprio erano inseriti quindi nel piano, diciamo, di studio di questi bandi. Quindi certamente, perché i ricercatori in questo libro qua si sono interrogati su questa determinazione di Giorgio di portare avanti la sua battaglia in un modo assolutamente radicale, in modo estremo rispetto agli altri compagni con cui ha militato, e portare avanti questa sua battaglia nei confronti del dominio. In effetti, diceva prima, Giorgio viene assolutamente attratto dal pensiero libero socialista trasmesso dal suo professore Pilo Albertelli, quindi studiando Benedetto Croce vediamo in che modo elaborava il pensiero e in che modo anche voleva che diventasse una concretezza quel pensiero lì. Questa è un'operazione. Parole di Benedetto Croce, non solo parole, dovremmo postulare, ma espressione religiosa. In questo è l'eterno della concezione liberale, in questa coscienza del divenire, nella consapevolezza di un'impossibile era di completa felicità, perché dalla felicità discende l'appagamento, da questo la stasi, e stasi significa fine. La concezione liberale presuppone dei valori morali a base delle libertà politiche da essa richieste, quali la libertà di pensiero e di stampa, di discussione e associazione. E quali valori morali che possano veramente far sviluppare e rendere degne della loro funzione le libertà sopracitate? Noi crediamo essenziali l'onestà, la lealtà, il rispetto verso le istituzioni e le leggi dello Stato, verso il prossimo, indice questo del livello di educazione civile di un popolo. Date queste premesse, non possiamo non avvicinarle e considerarle al lume della presente nostra situazione, e dobbiamo addivenire al pensiero che tutto ciò che è accaduto in Italia bisogna connetterlo al livello, non certo alto, di una coscienza morale e politica degli italiani. Analogamente, il liberalismo, dice Croce nella Storia d'Italia, è un concetto. Democraticismo è una attuazione. E infatti bisogna intendere il liberalismo come non una contingente corrente politica quale volle essere riconosciuta nell'Ottocento, ma come il sentimento della libertà intesa nel suo ampio senso. La democrazia non è altro quindi che questo sentimento di libertà applicato alle masse popolari. Era utile alla buona condotta dello Stato questo allargamento di basi in Italia? Il Croce risponde che solo col dare ampia libertà al popolo si può permettere a questo, anche attraverso esperienze più o meno dolorose, di raggiungere la maturità politica, il senso liberale. Si può parlare ancora oggi di liberalismo in Italia? È di questo soprattutto che bisogna discorrere, e su questo senso di libertà, inteso profondamente come dovere e diritto dell'uomo, che bisogna insistere, data l'esperienza negativa di questo ultimo ventennio antiliberale. E si parlerà di democrazia ammettendo col Croce che bisogna dare libertà agli uomini affinché, disponendo di essa, sappiano bene usarne. L'eguaglianza è un presupposto indispensabile per una vera libertà. Vi può essere eguaglianza laddove non è libertà, ma non libertà dove non sia l'eguaglianza. In un regime dispotico illuminato, i sudditi possono anche essere garantiti da una minore o maggiore eguaglianza elargita dalla volontà del principe, ma non si potranno mai neppure sognare l'idea della libertà. In un regime che sia libero, l'attuazione della vera libertà non può verificarsi se non si presuppone che gli individui hanno uguale possibilità di attuarla. Un applauso a Mauro per chi sta facendo gli applausi. Allora, ci dica l'età di quando ha detto questo, da quando avete letto queste cose, perché è morto a 22 anni, però forse siamo alle scuole superiori. Sì. Che età aveva? 18 anni. 18? Sì, 18, perché poi lui dopo studia la facoltà di medicina e abbandona la facoltà di medicina, e quindi siamo all'età di, c'è una maturità. Credo che l'osservazione di l'onorevole Bertoldi riguarda la maturità. Anche per sapere che differenza c'era fra le leggi razziali del 38 e quelle affermazioni sul meticciato prima. Se fissiamo la data, allora ci rendiamo conto. Sì, in effetti. Anticipano. Sì. Non c'erano leggi razziali nelle colonie, anticipano quelle malattie. Sì, è vero, ha ragione. Sì, le leggi razziali sono state già, in effetti, in un passaggio prima che ha letto Mara, le leggi hanno cominciato a essere contro il madamato, hanno cominciato a essere molto prima, insomma, dall'inizio degli anni 30 ha cominciato una pratica razzista, enorme razzista. E certamente nel 38 poi diventa una conseguenza. Allora, questa maturità deriva dal fatto che, dicevo, una ricerca di rappresentano la ricerca di Giorgio di mettere insieme la pelle, no? Quella di cercare una collocazione, no? Dentro questa questo panorama all'interno di quel panorama di allora. E quindi Giorgia Marincola nel 43, dopo insomma l'8 settembre, Roma viene occupata dalle armate tedesche, come suoi, con diversi suoi compagni, soprattutto quelli che ho citato prima, Corrado Giove e Caffio Cefaro, entrano in clandestinità, facendo un lavoro politico di mobilitazione, di raccolta di informazione e anche alcune azioni di sabotaggio nei confronti delle forze tedesche. Però nel giugno 1944 la repressione della forza tedesca insieme alla polizia capeggiata da Koch, Pietro Koch, capo della polizia di Firenze, che è stato polizia fascista, che è stato mandato a Roma specificamente per domare il dissenso e la lotta clandestina, quindi porta molto delle formazioni, diciamo, di resistenza, di partigiani a fuggire in altre aree, e Giorgia Marincola va nella zona di Viterbo, precisamente in un paesino che si chiama Corchiano, per portare avanti, quindi per seguire nella sua lotta antifascista e antinazista. Nel 1944, in giugno, Roma viene liberata, rientra Giorgio da Viterbo insieme a altri partigiani. A differenza però degli altri partigiani, Giorgio non ha voluto abbandonare la resistenza. Si arruola nel Special Operation Executive, quindi un'operazione condotta dall'esercito inglese, e va per un periodo di addestramento in Puglia. A seguito di questo periodo di addestramento si fa paracadutare nel Villese, a Biella. A Biella trovano una base, che era la base delle formazioni di partigiani appartenenti al Partito di Azione, e trovano comunque come quartiere generale in quell'area lì, in Castello Mongivetto. E quindi lì Giorgio Marincola, che diventa poi il tenente Mercurio, ha condotto diverse operazioni, fra cui anche operazioni proprie di guerra, e vediamo alcune di queste. E che Giorgio era distinto anche per questo particolare coraggio, nel senso che si non temeva i carri armati o i mezzi corrozzati dell'esercito tedesco, e vediamo come veniva descritto da un suo compagno partigiano in una di queste azioni. I tedeschi rimasti indenni aprono il fuoco con una mitragliatrice pesante. Altri mezzi, arrestatisi prima dell'imboscata, ci muovono contro tentando un aggiramento. Mentre sono incerto se sganciarmi o tentare uno sfondamento, vedo Mercurio gettarsi con grandissimo coraggio e sangue freddo all'assalto del corazzato con bombe a mano. Lo seguo con l'intero reparto e riusciamo a distruggerlo. Gli altri mezzi tedeschi restano sorpresi e ripiegano. Ci siamo liberati dell'accerchiamento, ma Mercurio è ferito abbastanza seriamente a una gamba e io lievemente a un piede. Nessun danno maggiore. L'addestramento era stato valido e Mercurio dimostra di avere ben meritato il grado di tenente. A Renato Marino, Mercurio, viene domandato in seguito, secondo la ricostruzione di Eugenio Bombicini, perché lui, un italo somalo, combatte con gli inglesi. Giorgio, intelligentissimo, risponde pronto con voce ferma e calma: Sento la patria come una cultura e un sentimento di libertà, non come un colore qualsiasi sulla carta geografica. La patria non è identificabile con dittature simili a quella fascista. Patria significa libertà e giustizia per i popoli del mondo. Per questo combatto gli oppressori. È una bellissima... Questa frase è stata detta a Radio Baita. E in effetti, arrivo. Quindi, quando è stato arrestato, di ritorno, in un viaggio di ritorno da Milano, Giorgio viene portato al carcere di BL, poi in secondo momento a Villa Schneider, una villa che è stata poi acquisita dalla delle forze tedesche, trasformandola in un luogo di tortura. Nell'ultimo piano c'era questa radio Baita, che aveva una funzione fondamentale, quella di fare dell'informazione o della disinformazione contro la formazione partigiana. E quindi chi arrivava a questa radio veniva intervistato e veniva dato come si dice al cinema, insomma il testo, viene dato un testo da leggere alla radio. Invece Giorgio Marincola Mercurio, il tenente Mercurio, quando era ormai all'interno del studio, lascia perdere il campione che doveva leggere e dice queste parole, e dice chi l'ha ascoltato, alcuni che l'hanno ascoltata alla radio, perché la radio era molto ascoltata allora in quell'area lì, hanno sentito poi il rumore della botte e di tiri della sedia, quindi è stato sicuramente picchiato, minato e torturato. Quindi passa un periodo nel carcere di Torino, e dal carcere di Torino sembra che passate per un periodo, anche alcuni giorni durante il viaggio di trasferimento per il lager di Bolzano, anche a San Vittore a Milano. A Bolzano è stato trasferito, quindi al lager di Bolzano, si dice presumibilmente la ricerca per la costruzione della ferrovia del Brennero o per la ricostruzione della ferrovia. Quindi viene ospitato con la matricola 10.388 nel blocco baracca numero 3, terza baracca. E quando poi c'era quell'altro, chissà la storia del lager, quindi blocco celle, quella che era dove c'erano i carcerieri nazisti, insomma ucraini, che erano molto temuti, Michael Seifert e Otto Zain. Allora, la cosa interessante è che il 30 aprile 1945 arriva la forza alleata e liberano i prigionieri. Non arrivano le forze alleate. Sì, lì c'è stata la rivolta, quindi il 25. C'è una rivolta, i nazisti fuggono, la maggior parte, sì. E le SS del campo rilasciano un lascia passare e gli fanno uscire. Bene, grazie per queste precisazioni. Gli alleati arrivano solo in maggio. Allora, il 30 aprile Giorgio Marincola poteva andare con la Croce Rossa verso la Svizzera, come era previsto dal piano di evacuazione. Invece Marincola, dopo aver conosciuto all'interno del lager alcuni partigiani trentini di Val di Fiemme, insieme a loro parte a piedi e fa 40 km verso Val di Fiemme e vanno nel ospiti del convento dei francescani. Il responsabile del convento, padre De Gasperi, a sua volta era nel lager di Bolzano, perché simpatizzava, perché aiutava, perché proteggeva i partigiani delle formazioni legate al Comitato di Liberazione Nazionale a Val di Fiemme. E quindi arrivano e vengono ospitati e vediamo ce l'abbiamo quel certo. pezzo lì, e vediamo che il giorno dopo, quando si sveglia Giorgia Marincola su un letto all'interno del convento, si guarda intorno, dà un'occhiata all'ambiente, guarda il suo amico e vediamo che cosa gli dice, che a mio parere è un a me ha suscitato un'emozione veramente incredibile di fronte a questa determinazione che è molto estrema. Ma devo svolgere questo lavoro. Giorgio Marincola fu arrestato nel gennaio 45 durante il rastrellamento della Serra, la zona collinare a sud-ovest di Biella. Tradotto in carcere, Marincola dà come generalità il nome falso di Renato Marino, ma la data e il luogo di nascita sono i suoi, così come i nomi dei genitori, che tuttavia dichiara defunti. Dopo aver parlato a Radio Baita, lo trasferiscono a Torino, al carcere delle Nuove, e di lì al Polizei- und Durchgangslager di Bolzano, destinato ai lavori forzati per la ricostruzione della ferrovia del Brennero. Il lager di Bolzano viene consegnato alla Croce Rossa Internazionale il 30 aprile 1945. Renato Marino, cioè il tenente Mercurio, cioè Giorgio Marincola, rifiuta di salire su un camion diretto in Svizzera. Decide invece, insieme a due compagni di prigionia, di dirigersi a piedi verso sud. Ricordi, Renato, quando estasiati tendevamo le orecchie alla voce del fiume? Vittorio, mi dicesti allora, se non siamo morti là dentro, non moriremo mai più. Ci mettemmo in cammino. Raggiungere la famiglia, il primo pensiero. Ma soltanto per breve istante, quasi fossero due quelli che in te parlavano. Poter avere un fucile. La notte ci accolse un nostro vecchio compagno di prigionia, padre De Gasperi, guardiano del convento dei Francescani di Cavalese. Povero vecchio, al vederci non sapeva credere ai suoi occhi. Era stato liberato dal lager pochi giorni prima, in considerazione della sua età. Posti tu a risvegliarmi il mattino seguente, seduto sul letto. Vittorio, mi dicesti, non ti sembra ignobile finirla così? Ti guardai perplesso, non capivo. Raus, dicesti, disegnando nell'aria la frusta che ci aveva martoriato la carne per tanto tempo e che tanti compagni ci aveva ucciso. Pochi secondi ed ero pronto anch'io. Partimmo la sera stessa, dopo che un altro compagno di prigionia ci aveva scritto un biglietto di presentazione per il comandante della brigata Cesare Battisti, operante tra Stramentizzo e Molina di Fienne. Ecco, siamo all'ultimo giorno della vita di Giorgio, gli ultimi quasi ore ormai, no? Non sono più giorni, perché poi il 5 maggio l'avvocato Morandini, trentino, viene inviato per verificare e fare il rapporto su l'ultimo, poi di fatto, eccidio compiuto dalle forze tedesche in Italia. E Giorgio è in pratica è una delle ultime vittime, no? Prima della ritirata completa dell'armata tedesca del territorio italiano. Quindi Giorgio per la seconda volta quindi ha voluto continuare la lotta. Lui poteva smettere la lotta, no? Nel 44, quando è stata liberata la Roma, invece ha voluto continuare la lotta andando a Biella. Nel 30 aprile del 45 ha potuto per la seconda volta festeggiare la liberazione, invece ha voluto continuare nella sua tenacia, nella sua determinazione per combattere l'oppressore. Quindi anche questa visione, l'oppressore, la libertà per tutti i popoli, quindi un pensiero, questo è, certamente c'è l'impatto della sua pelle in questo, no? L'essere anche somalo, non è solo l'essere italiano, quindi l'aver cercato continuamente di abbracciare, no? Più luoghi e più desideri di libertà, no? Unirli in questa parola di uguaglianza e di libertà. E quindi la sua lotta era una lotta per la libertà, non è per la difesa di un territorio o la difesa per un, no? Un luogo in particolare, ma la difesa della libertà di popoli. E quindi Giorgio in un momento di controllo di un posto di blocco che controllavano alcuni camion, insomma, delle forze ritirate nella zona di Val di Fiemme, insomma Molina di Fiemme. E quindi lì controllando un mezzo militare tedesco che poi sventolava la bandiera bianca della Croce Rossa. Della Croce Rossa, però quando si è avvicinato Giorgio Marincolo insieme a altri compagni, altri partigiani, alcuni dei soldati tedeschi approfittano perché poi non erano neanche armati, e hanno approfittato di queste loro, diciamo, di non aver, insomma, non è un allerta, non è in una situazione, non si consideravano più in guerra, ma comunque, anche perché il Comitato di Liberazione Nazionale ha dato indicazioni, ordini di non portare più armi, di non combattere per dare adito ai tedeschi, e così scritto nella ricerca. Invece vengono sparati e vengono assassinati 12 partigiani, fra cui anche Giorgio Marincola. E quindi Giorgio Marincola, quando l'avvocato Morandini di Trento andava a controllare i cadaveri per scrivere il suo rapporto, ha visto sul corpo l'insegna, insomma, del lager di Bolzano. A quel punto, perché gli stessi compagni che ha conosciuto Val di Fiemme, perché erano pochissimi giorni, quindi non sapevano chi è, quindi un negro americano, un medico sudafricano, quindi erano molto testimonianza molto imprecisa, però che di fatto era comunque nero, no? Era medico, è africano, non sudafricano, ma comunque appartiene al continente africano, e quindi viene finalmente identificato come proveniente, anche non sapevano di quale lager proveniva, e quindi però l'avvocato Morandini riesce a capire l'insegna dell'indicazione quindi che aveva, che era progeniero del campo del lager di Bolzano. E la cosa interessante, poi questa storia viene sepolta, come nella ricerca citavano, dei detriti del tempo, viene sepolta al di là di una nel 45 nel campo dell'università, insomma, di Roma veniva celebrato subito dopo, quindi la sua morte, veniva celebrato un momento in suo ricordo, pubblicato sul giornale del Partito di Azione, l'Italia Libera. Nel 50, quindi nel 40, scusate, quando poi venne assassinato, veniva sepolto al cimitero di Cavalese, poi dal cimitero di Cavalese venne trasferito al cimitero di Chiavazza, dove c'è a Biele, dove c'è questa strada, nome dedicato a una strada che porta il suo nome, e poi subito dopo viene trasferito nella tomba della famiglia insieme a suo papà, sua madre non naturale, Elvira Flores, nel verano. Nel 53 allora ex ministro, cioè allora ministro, primo ministro Alcide De Gasperi ha emanato un decreto per assegnare, insomma, la medaglia d'oro al valore militare a questo giovane, e la motivazione giovane studente universitario, subito dopo l'armistizio partecipava alle lotte di liberazione, molto distinguendosi nella formazione clandestina romana per decisione e per capacità. Desideroso di continuare la lotta, entrava a far parte di una missione militare nell'agosto 1944, veniva paracadutato nel Vegliese, rendeva preziosi servizi nel campo organizzativo e in quello informativo, e in numerosi scontri a fuoco dimostrava ferma decisione e leggendaria coraggio, riportando ferite. Caduta in mani nemiche, è costretto a parlare per propaganda alla radio Baita, che abbiamo citato prima. Per quanto dovesse aspettarsi rappresaglie estreme, con fermo cuore coglieva l'occasione per esaltare la fedeltà al legittimo governo. Tu che legittimo governo per alla libertà, insomma. Dopo due crogioni. C'era il primo governo dopo Mussolini. Sì. A Roma si era formato appena arrivati gli americani. Sì. Dopo due prigionerie, liberato da una missione aliata, rifiutava porsi in salvo attraverso la Svizzera e preferiva impugnare le armi insieme ai partigiani trentini. Cadeva da prode in un scontro con le SS germaniche quando le lotte per la libertà era ormai vittoriosamente conclusa. Allora, quindi alcuni, dicevo, riconoscimenti: la medaglia d'oro nel 53, prima ancora una laurea d'onore dall'Università della Sapienza nel 46, in una cerimonia in cui erano presenti anche i fratelli della seconda moglie del padre, Rita Ivano, a Biella, era il periodo della festa della liberazione del 70, e poi di Giorgia non si è parlato più. E Giorgio, quindi, poi questa ricerca poi come è nata? Questa è la cosa interessante. La cosa interessante è che questa ricerca nasce dal momento in cui si è cominciato a indagare sulla responsabilità di Priebke nell'eccidio delle fosse Ardiatina. E allora questa ricerca, all'interno di questa ricerca di fascicoli, di documentazioni, hanno trovato in un luogo quasi abbandonata all'interno della procura militare, di un'armadio che venne chiamata l'armadio della vergogna, dove c'erano 690 fascicoli che erano stipati dentro questo armadio con l'ante girata verso il muro. All'interno di questo, quindi, hanno trovato diversi fascicoli, di cui quindi hanno rintracciato il nome di Pilo Albertelli, il professore che è morto nella fossa Ardiatina, grazie alla quale Marincola si è avvicinato ai valori della democrazia, della libertà, e quindi del movimento liberal socialista, e anche di Marincola. E da quel momento lì si è cominciato a ricostruire una parte di questa storia, e nel 2005 questi due valorosi ricercatori, con pochi mezzi, sono andati ad un servizio che è stato instaurato da poco all'interno del Comune di Roma, che si occupava della memoria e soprattutto la memoria della resistenza a Roma, e si rivolgono lì proponendo questo progetto qui. Quindi poi questa proposta li ha portati a girare l'Italia, quindi nel libro citano l'archivio storico di Bolzano, il museo storico di Trento, personaggi, realtà, insomma, per costruire questa frammentata e faticosissima, certamente una faticosissima ricerca, perché sono tutta testimonianza frammentata, dislocate in situazioni diverse, archivi militari, archivi inglesi, archivi italiani, testimonianza, compagni di lotta che sono sopravvissuti, che sono rimasti in vita, e soprattutto l'archivio della famiglia, perché la foto che oggi troviamo, c'è un interessante comunque sito dello stesso titolo di questo libro, Razza Partigiana, un titolo originalissimo, Razza Partigiana, perché il libro è una critica anche alla propaganda e alla teoria razzista, però la razza partigiana. E quindi c'è un sito dove troviamo molte documentazioni, fra cui anche molte fotografie, e quindi le documentazioni che sono state reperite fondamentalmente dall'archivio della famiglia e soprattutto della sua sorella Isabella, su cui vorrei spendere alcune parole, perché poi Isabella ha avuto una faticosissima e difficilissima convivenza con Elvira Flores, la moglie di Giuseppe Marincola, il padre. Il padre poi era assente perché è un militare, spesso in giro, poi negli ultimi anni è stato anche lui in prigionia in Etiopia. E quindi nel 45 questa ragazza, all'età nata nel 25, quindi 45, aveva 20 anni, veniva espulsa, mandata via da casa, ma lei era fotomodella, ha lavorato anche con Guttuso, e poi ha avuto anche certa esperienza nell'ambito del cinema, ha avuto qualche apparizione nel film Riso Amaro, nel film Fabiola, in un teatro con Walter Chiari, e quindi ha avuto, diciamo, una certa esperienza nell'ambito dell'arte e del cinema. Negli anni 60 però decide di tornare in Somalia. Tornata in Somalia, però non ha vissuto fino agli anni 90, fino all'inizio della guerra civile in Somalia, e viene rimandata in Italia come italiana. E dopo 30 anni però non ha mai imparato il somalo. E quindi lei per 30 anni, quindi dal 60 fino al 90, è rimasta in Somalia e ha comunque lavorato perché suo fratello abbia anche un ricordo in Somalia, per cui è riuscita a nominare un'aula della scuola italiana a Mogadiscio al nome di suo fratello Giorgio Marincola. Adesso, dopo la guerra, insomma, Somalia non so se questa scuola è ancora in piedi, ma comunque lei torna in Italia negli anni 90 con un suo figlio Mohammed Antar, con la quale anche il libro ha avuto a che fare, e anzi con questa nipote è poi stata scritta adesso un romanzo che parla soprattutto della storia della sorella e dei suoi ricordi. È morta nel 2010 questa sorella Isabella Bologna, e ha avuto una vita certamente molto difficile anche quando è rientrata in Italia. Il suo figlio, pensate, che Mohammed Antar, questa nipote, faceva le fila in costura come fosse un ragazzo di origine straniera, quindi per permesso di soggiorno, ma mentre aveva una madre italiana. Quindi le vicende di questa tipa qua. Quindi questo romanzo adesso c'è nel mercato, è Timira, credo che pubblicate da Feltrinelli, Timira o dei Naudi penso, e quindi che racconta questa storia qua di Isabella. Quindi io ho cercato di raccontarvi, e vi ringrazio sicuramente per la vostra partecipazione, la vostra attenzione, perché credo che oggi l'Italia che cambia, perché ci sono delle persone che appartengono oggi a queste duplice appartenenza, triplice appartenenza, molteplicità della lingua, e quindi l'Italia comunque non è una storia nuova. L'Italia ha avuto in passato, pensate che questo ragazzo scuro di pelle, vedete il coraggio, perché è interessante, questo faceva la lotta clandestina a Roma in quegli anni lì, sto parlando negli anni 30-40, militante del Partito di Azione, e con la sua pelle scura si esponeva, rischiava, anzi quando è morto il suo professore Pillo Albertelli in marzo, in aprile è stata celebrata una grandissima messa in Santa Maria Maggiore. Questa giovane rientra dalla zona di Viterbo per fare, come si chiama, per stare, non stare solo alle messe, ma per fare il servizio d'ordine, pronta a scontrarsi, insomma, per la difesa delle per la gente che partecipava alle messe. Poi rientra Viterbo a seguito di questa messa, quindi è un coraggio particolare. Anzi, un altro episodio per dimostrare il coraggio e questa determinazione estrema: quando un suo compagno Corrado Giove, che nel 95 ancora era in vita, ha celebrato una messa 95 dopo 50 anni della morte, un ricordo di Giorgio Marincola, un ricordo di questa giovane ventenne che è morta nel 45, sua compagna di lotta partigiana. Nel 95 Corrado Giove è stato arrestato negli anni nel 44. Allora Cafio Cefaro e questo Giorgio Marincola, a seguito dell'arresto, sono andati a casa di Corrado Giove, che è stato arrestato poco ora prima, perché aveva nascosto, loro sapevano dove aveva nascosto nel proprio appartamento dei documenti importanti, per andare a ritirarli, no? Dell'appartamento, e lui aspettava, era fuori il portone, perché poi lui ha fatto la staffetta fondamentalmente quando è stato arrestato nel 45 tornando da Milano, faceva la staffetta, no? E quindi raccoglieva informazione, cercava di, quando si interrompevano i collegamenti tra i partigiani, tra le formazioni, cercava di attivarsi lui di persona, quindi girando l'Italia con la sua faccia, no? Che sicuramente non è di ariano, no? O di tipicamente italiano, no? una caratteristica assolutamente visibile a loro. Questo per dire quanto era determinato, e questo ci spiega anche come mai non ha mollato la lotta quando Roma è stata liberata nel 44, non ha mollato quando è stata liberata del lager di Bolzano. Quindi è un personaggio sicuramente di raccordo. Questo è per dire, per tornare alla mia premessa all'inizio, oggi è importante ricordare che la storia è fondamentale, perché spesso si ha una memoria non particolarmente plurale, che riesce a abbracciare tutti i dettagli. Mm-hmm. I dettagli sono fondamentali per comprendere la storia, perché la storia, io da sociologo adesso parlo, la memoria che ce l'insegnano, intanto la memoria non è solo il ricordo, la memoria è una, sono degli strumenti nella nostra, come dire, dotazione per collocarci nel presente, no? La memoria è una modalità per vivere il presente, e quindi definire il presente secondo la memoria è di certo tipo di memoria, che spesso implica anche l'oblio, si dimenticano molte cose, strascurano tante cose, e quindi diventano marginali, diventano secondari, diventano poco importanti, diventano insignificanti, mentre oggi alcuni dettagli diventano assolutamente fondamentali per leggere il nostro presente oggi e per ripristinare una memoria plurale, una memoria che è capace ad abbracciare, no? Tanti dettagli che magari anche sono in contraddizione, perché quando parliamo di Giorgio Marincola parliamo dell'Italia, parliamo della Somalia, no? Quando dico la storia è fatta di idee e di uomini che camminano, di donne e di uomini che camminano, vuol dire che i confini, i territori sono connessi. Il papà Giuseppe Marincola, che va in Somalia con una missione di guerra, però comunque Giuseppe Marincola mantiene una dignità, mantiene una, quando riconosce i suoi figli, per perfino il nome Giorgio, il nome Isabella, sono due nomi del papà e della madre di Giuseppe, quindi è già, vuol dire, no, la tradizione soprattutto nel meridione di dare ai figli i nomi di nonni, quindi vuol dire che questo padre comunque, nonostante le sue, diciamo, missione di guerra in Somalia, però ha mantenuto una dignità, ha mantenuto un valore, no? Per cui ha riconosciuto, oh, questi figli, li ha cercati di dargli la cittadinanza italiana, nonostante le leggi, le normative, la mentalità. Allora stiamo parlando degli anni 20, sto parlando del 1923, 1925-26, Marincola arriva all'età di 2-3 anni in Italia. Quindi nonostante questo, lui, no? E questo padre ha affermato la sua, no? dignità, il suo orgoglio di essere padre di figli, no? che nati di un'altra donna, di altra, che ha un'altra appartenenza, e nonostante la mentalità, le contrarietà di allora, lui si riporta qui. Quindi questo è un insegnamento importante, nel senso che le persone possono collocarsi in diversi spazi, possono collocarsi avere diverse appartenenze, ma comunque, no? c'è sempre dei valori, no? Questo è qua il valore di Giorgio Marincola, il valore della libertà, no? il valore dell'uguaglianza che abbiamo visto nella sua lettura. E credo che questo, per cui io quando ho esposto a Valeria questo pensiero qua, non perché sono storico della resistenza o perché sono studioso della resistenza o perché sono storico e mi occupo delle vicende italiane, a parte che poi apro parentesi, alcuni parlano di parti del mondo che non hanno mai visto, pubblicano i libri, noi li leggiamo, no? Un straniero che vive in Italia per 30 anni, 35 anni, che ha studiato, poi magari qualcuno mi si è anche considera poco legittimato a raccontare l'Italia. Dico, scusa, uno che non ha conosciuto l'Italia, un corrispondente giornalistico che va 5 minuti in un paese, in albergo 5 stelle, ci manda sui giornali, diventano fonti, giusto? Ha scritto sul giornale. E uno che vive qua per 30 anni non sa niente ancora, studiato, in Italia. Cioè, sono arrivato in Italia quando Garibaldi li stava per unificare, cioè, per cui e quando sono entrato qua e Lionel Bertoldi mi fa: ma lei come mai si occupa di questa cosa qua? Mi occupo perché io appartengo alla storia dell'idea, non appartengo al luogo, appartengo all'idea, e l'idea della libertà e dell'uguaglianza sempre hanno fatto parte del mio bagaglio personale e quindi e anche valoriale. Con questo vi ringrazio molto. Grazie a Mara Reuter. Vorrei prima ringraziarla. Posso? Certo. Ringrazio uno dei nuovi cittadini italiani che si è sforzato, abbiamo sentito lo sforzo e l'abbiamo bevuto tutto lo sforzo per esprimersi bene, di affrontare un problema che riguarda la libertà, la giustizia da parte di e lei è arrivato in un luogo dove ci sono molti informati. Qui dietro di me siede il figlio di uno dei comandanti partigiani della Val di Fiemme, che nome di battaglia Spinella. Tra le mani ha un libro sul lago di Bolzano che parla di Quintino Corradini, nome di battaglia altisonante Fagioli, che esce lo stesso giorno di Marincola, anche lui fa la strada a piedi, dorme durante la strada e arriva a Molina di Fiemme, che è il suo paese, e è coinvolto negli stessi episodi di Marincola il 3 e 4 maggio 1945, perché non avevamo ancora imparato, parlo di tutti, che a nemico che fugge bisogna fare il contro. Non l'avevamo imparato. E allora si riteneva che si dovesse fermarli perché magari arrivavano fuori in Europa e avrebbero continuato la guerra, e quindi l'indicazione che veniva non molto chiara dai comandanti partigiani era di disarmare quelli che passavano, e nel tentativo di disarmare, certo, sì, le SS che risalivano da Val di Fiemme, avvengono gli scontri di Stramentizzo e di Molina di Fiemme. La conseguenza sono stati 30 morti, perché i morti tra partigiani civili sono 30, e l'incendio di Molina, di Stramettizio, di Molina di Fiemme. Il mio bravo compagno, che andiamo a trovarlo il giorno l'altro, Fagioli, era appena arrivato a casa a piedi, era ancora si trascinava ancora la gamba, perché nel lager non avevano curato la sua gamba, era cieco di un occhio perché una scheggia di una bomba a mano l'aveva ferito, aveva la gamba là, e arriva e lì bruciano la casa del Molino di Fiemme. Loro cosa fa lui? Va via dai Molino di Fiemme e va a Rodolo, che è una montagna che sta sopra Fiemme, non è più senso, è ancora lì. Se andiamo a trovarlo, troviamo Fagioli, che abita in una casa di contadini, ha tolto la luce perché senza luce non ha solo i pannelli solari sopra la terra. Al telefono, ma non risponde al telefono, e ha messo in piedi un albero. Lui non so se è stato coinvolto negli scontri, e Marincola lo conosceva perché Fagioli stava nelle celle e Marincola è passato dalle celle del lager di Bolzano. Lui ha piantato un albero e ha avuto l'indennità di partigiano dopo la guerra, e anche perché è stato ferito, ha perso un occhio e ha fracassato una gamba, ma non ha mai ritirato la sua indennità di partigiano, perché l'ha sempre destinata al Movimento Partigiano Internazionale. Lui, la sua pensione viaggia verso il Movimento Partigiano Internazionale, e lui ha un albero dove ha appeso tutti i trofei e tutti i ricordi di tutti i partigiani del mondo, a proposito, che conoscono Fagioli. Perché una delle cose che ha accomunato i partigiani, il lager di Bolzano, dove sono passati 9.500 persone, è che nel lager sono passati provenienti da tutte le città dell'Alta Italia, da tutti i paesi stranieri, sono passati oriundi argentini di infinite nazionalità, perché tutti resistevano nel lager e portavano avanti i valori in cui credeva Marincola: la libertà, la giustizia e l'uguaglianza. Grazie. Voglio sentire il figlio di Spinello. Il senatore Bertoldi, nel ringraziare veramente questa riscoperta per noi, o questa immagine di questo giovane eroe della Resistenza, e soprattutto vi ringrazio anche a nome di mio padre, perché nelle sue memorie lui non ha conosciuto direttamente Marincola e lo ha messo come caduto X. Però quando ero ragazzo, mio padre, di questo Marincola, di questo allora definito negro, perché allora si poteva ancora dire, adesso non si può più dire, e mi raccontava sempre che negli ultimi giorni è arrivato questo negro che si è unito con i partigiani, e dice: ma cosa è venuto a fare? E come esempio di nobiltà d'animo, di uomo che ha vissuto per la libertà ed è morto per la libertà di tutti, non solo sua, ma anche nostra, insomma. E quindi un grazie anche postumo a nome di mio padre, che non l'ha, cioè doveva essere, lo ha ritratto, perché nella strage di Stramettizio purtroppo poi c'è una documentazione fotografica, e c'è, poveretto, anche l'immagine senza vita di Marincola. Quindi grazie anche a nome. Grazie a voi. Dunque, purtroppo poi questo paesino Stramettizio non c'è più, perché è stato è diventato un lago in pratica. Sì. Io vorrei dire che questi ragazzi tutti e due sono stati poi portati via la madre. Prendiamo anche atto di questo, come succedeva, cioè o venivano abbandonati lì sul posto, o in questo caso venivano sottratti. Sì. Tant'è vero che lei, la Isabella, viene a sapere di essere figlia di Somali dal perché trova nel libro del fratello una fotografia mandata dalla madre, in cui diceva che non lo dimenticava mai, insomma. E questo è veramente uno. Io ho visto come in Somalia venivano, cioè, tra l'altro la madre aveva mandato un fratello che era uno zaptier, uno di quelli del servizio, al servizio degli italiani, militari somali al servizio degli italiani, per avere anche qualche notizia del figlio, quindi non era una rottura così, ma era rimasta, tant'è vero che la sorella quando torna in Somalia va a cercare la madre, poi ha un rapporto difficile anche con la madre, insomma, no? Ma lui, sì. Io posso testimoniare nel senso che ho conosciuto la Somalia e so come per esempio le persone che avevano questi rapporti erano completamente tagliate fuori dal mondo somalo, insomma. Quindi per vederci, grazie, ma lui ha conosciuto poi la figlia, sì, ma lui no, lui non l'ha mai conosciuta, lui non l'ha mai conosciuta, la figlia è prima di partire, finché era piccolo. Sì, sì, ma dopo diciamo non la più giocata, non si è mai stata la madre.